ancora eletti, ancora infetti, da vecchi scomparsi, tiriamo avanti senza tanti complimenti. Sono notti insonni, notti di fantasmi e di specchi, che ci dicono la smetti appena siamo svegli, considerati martiri, partiti per la guerra, arruolati come fanti, armati di rimpianti, cadenti, come le stelle a cui esprimiamo desideri, occhi fieri, su volti neri, figli di una stirpe della rabbia dei guerrieri, e ogni mattina sono più colpi di ieri, siamo veri o fingiamo, sopravviviamo stento, è un inferno ogni momento, a fondo, verso il centro del mondo, poi tocco il fondo, credendo di cominciare da zero, sono il guerriero, guardo un cielo sincero, mi indebolisco, spero, poi tutto è nero, e sprofondo nell'altro emisfero. Ferite ancora aperte su corpo e mente, conosco le battaglie e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze e la sopravvivenza. Ferite ancora aperte su corpo e mente, conosco le battaglie e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze e la sopravvivenza. Armati di ira rovente, sguardo triste, segnati da ferite aperte su un cuore ormai morente. Sopravvivenza, passate tempeste, a pensare a ciò che ci circonda e riconoscerlo fatto di merda. Odiamo sta terra perversa, una vita che ci sfianca, l'unica pace nella bara, o sotto il corpo di un amante mentre la si ama, c'è chi lo schiama, ma per il resto è solo merda sopra merda, sull'asfalto di una strada, ti chiedi perché un'amica muore in autostrada, sempre una nuova sfida, nuove lacrime consacrano la lama di una spada, esperti in un'arte che salva il culo più e più volte, porte chiuse su facce depresse, no speranza nel domani, effetto tsunami, terremoti sui nervi, onde su occhi persi, prima legge di mare, dentro un quadro d'asfalto, se qualcosa può farlo andrà peggio, pronto a tutto, uccidi sto pazzo, al sicuro nel suo oceano, imperatore, i sopravvissuti ti salutano, ferite ancora aperte, su corpo e mente, conosco le battaglie, e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze, e la sopravvivenza. Ferite ancora aperte, su corpo e mente, conosco le battaglie, e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze, e la sopravvivenza. Ritorno sullo stesso tema, survival art, l'unica che mi ha salvato il culo e la schiena, restiamo con l'adrenalina in carica piena, aspettiamo da un momento all'altro un'altra bomba di Hiroshima, non cadiamo come il primo tizio Caio, facciamo l'Elsa, ci votiamo il dio dell'acciaio, io nel ghiacciaio tra gennaio e febbraio, in duro allenamento, in ascesi dentro un saio, portiamo in cuore desolazione deserto, dormiamo con un occhio aperto, perché un esperto sesto senso ci guida dentro avverso, sopravvivo, se c'è bisogno mordo, mordo, sono un orco della terra di Mordo, quando piomberò su te come un condor, penserai che quel giorno sarebbe stato meglio che tua madre avesse usato un condor. Ferite ancora aperte, su corpo e mente, conosco le battaglie, e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze, e la sopravvivenza. Ferite ancora aperte, su corpo e mente, conosco le battaglie, e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze, e la sopravvivenza. C'è un'invasione di cattivi pensieri dentro la mia testa, le colonne portanti di essa la vogliono guasta, per infilarla su un'asta, ma io le aspetto, non permetto, li combatto e premetto, conservo ancora nel petto quell'oggetto che distingue l'uomo da inetto. Sono qui, sopravvivo da anni, sempre qui, sopravvivo agli inganni, sopravvivo agli affanni, anche privo di armi, non mi arrendo, fino all'ultima goccia di sangue, combattiamo, fino a quando ci reggo le gambe, ma una battaglia della psiche, e questo non mi piace, perché fuori tutto tace, e dentro brucia come brace, credi di aver la pace, e sei nocivo come antrace, ora t'ho messo in guardia, t'ho spiegato gli effetti, firmato Neko, trova, in la cerchia degli eletti, ferite ancora aperte, su corpo e mente, conosco le battaglie, e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze, e la sopravvivenza. Ferite ancora aperte, su corpo e mente, conosco le battaglie, e so che ho poche speranze, incertezze, e la schiena si spezza, creiamo salvezze, e la sopravvivenza. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen Sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos, bis ins Grab hinein.